che è avanti. Aspetta, hai detto qualcosa. Avanti. Ma lo senti. Avanti su 10. Buongiorno. Buongiorno, con chi parlo? Sono Alberto, sto modulando da casa di un amico. Stiamo provando la radio. Capo Alberto, vai, già va bene. Dove sei? Che via sei? Butti butti, si infiotta. Ma sta arrivando bene, dai. Sì, com'è? Santiago 7, radio 5. Anche tu mi arrivi benissimo, perfetto, pulito pulito. Capo, ragazza, dai. Non rispondevi, pensavo che non stessi uscendo. Sì, sì, ci sono. Ma non No, siamo a casa di un amico. Ah, ecco, vabbè, ma salutami l'amico. Se vuoi dire chi è. Lo conosce, Christian. Non avevo capito. Ciao, Christian. Provando la radio per vedere se funziona bene. Ma sei a casa sua? Sì, sì. Ho capito. No, già va bene, dai. Sentiamo sette. A pizzo. Cosa, me l'hai già capito? Ho detto Cristian lì. Adesso te lo passo. Lui è dentro casa, la radio c'è, la piazzata in macchina. Ehi, vabbè, lascia stare, non c'è problema. Via, va bene. Voi vi conoscete bene, vero? Cappa, io sono amico anche del fratello. Di Antonio, sì. Esatto. Antonio Riserva, se non mi ricordo male. Ehi, non avevo più sentito Antonio, boh. Sì, qua stava entrando. Sì, è da un po' che non modula. Quando ti avevo messo a sottetto, stavo entrando, poi non l'ho più sentito. No, neanche noi. Vabbè, non c'è problema. Comunque sono Alberto, piacere. Ehi, ciao Alberto, Gianni lo più lungo. Perfetto. E io in macchina non lo sto più mettendo perché sta entrando poca gente in questo periodo d'estate, vanno tutti al mare a passeggiare, questo e quell'altro. Adesso, come viene l'inverno, cominciano ad attaccare. E beh, come avevi detto, la gente adesso va da casa, ancora per questi pochi giorni che se lo può permettere. Appagato. Ma tu sei amico di Cristian? Sì, siamo vicini di casa. Ah, ecco. Faccio capito. Beh, già lo so dove abito. Sì, sì, noi abitiamo a 500 metri di distanza più o meno. Sì, sì, ho capito. Andave, dai. Va bene. Io sono all'ascolto, dai. Se magari entri dopo perché stavo facendo roba, ho risposto perché ho sentito chiamare. Cappa, perfetto. Avanti se vuole entrare qualcuno. Noi ci sentiamo dopo, Gianni. Ehi, va bene, dai. Sei con Rix. Cappa. Adesso è l'ultimo numero, ci sei. Avanti, chi è? Buongiorno. Buongiorno a lui, buongiorno. Chi sei? Mi chiamo Alberto, stiamo modulando da casa di Cristian, forse lo conosci. Non ho capito, tu hai alzato il volume, da dove stai modulando? Stiamo modulando da casa di Cristian, il fratello di Antonio. Cappa, salutoni. Cappa. Non capivo chi era, ho detto, ma... Sono il suo vicino di casa, mi chiamo Alberto, piacere. Capo Antonio da questa parte. Cappa. Quello lì, vabbè. Dentro casa, allora, ora stiamo guardando dalla macchina, la radio ce l'ha messa in macchina. Cappa. Via, fra poco già vieni. No, perché il segnale non è molto alto, ho detto, cavolo chi è, ho detto. Quando vai in campagna a me non mi arriva fortissimo, capito? Perché non posso lui. Sì, noi siamo sulla Budimuti, siamo vicini di casa. Gaffa. E tu già mi sentirai forte. Sì, pulitissimo, perfetto. Gaffa. Cioè non mi hai parlato al baracchino tu? No, purtroppo no. Però voglio mettere anch'io una radio a casa. Capo, mettila, almeno ci facciamo qualche chiacchierata la sera, tanto già siamo sempre, più o meno, siamo sempre, una volta ci sono io, una volta ci sono altri. Assolutamente sì, molto molto volentieri. Gappa, te l'ha spiegato Cristian come funziona? Sì, a grandi linee sì. Se te lo passo. Gappa. Vabbè. Sono piccolino. Ha ha ha! movimento tra un po'. Forse fa un po', o non lo giro o non lo so, ma adesso vediamo. Gabba gabba, via. Sacco gioco, gioco dalle zinco di Manzano sempre vende. Capa, io troppo careddo, esci troppo careddo. Un distrutto, o che cosa stiamo facendo? O si sta matto Lucernaglio a chi piglia Eva, gli ho messo la guarnizione nuova, poi ho fatto un'altra cosa, caspettina. Se l'ha fatto bene. La Eva ha microperdita in occhi, e la giubbotto chi sa fare, che stanno vendendo spray a tappare, capito? Per tappare il bocchettino ci sarà, perché mi entra appena appena di acqua. E raggio sistemato. Da gioco da sciamani, sempre vende. Questa mattina ho fatto altra roba. Qualche cosa, ti sento da lavorare. Capa. Da voi, per rilassarmi, da voi passo da... passo al circolo. Tanto, puoi dire. Ho detto, per rilassarmi dopo passo al circolo. Sempre quello che ti ho detto. In corso Vittorio Emanuele. Capa, 108, corso Vittorio Emanuele 108. Più tardi vado, verso le 7:30 così. 7:30 qualcosa. E a me non mi distrago un po'. Fate bene, siamo di fare quello qua a casa, adesso non c'è fresco. Dove vuole andare adesso? Io mi porto a lavorare a casa, c'è fresco. Capa, già va bene, ma non ci sta male la verità, Non ci sta male. Cazzo mia gana che naggio, proprio. Adesso mi sdraio un pochettino, mi sdraio. Cazzo capetti. Fai bene, riposati, che io devo fare il meccanico adesso, dai. Meccanico? E cosa sei barrato? Ammortizzatore elettrico. Può succedere, ma che quelli davanti? No, c'è sempre adesso. Non ho capito. Devo portare il motore davanti, non c'è sempre, c'è la tutta, si sta giù, non lo so. Vabbè, sono cose che succedono, quindi quando si usano. Ok, dai, io ti saluto, dai, mi ha fatto piacere, saluta anche il tuo amico. Gabba, mi ha fatto piacere, ci sentiamo. Che io adesso mi faccio una pennichella. Ti saluto anch'io. Gabba, saluti. Attenzione, sono le 10. Attenzione, sono le 10, c'è qualcuno? Attenzione, sono le 10. Andiamo, che chi è? Buonasera. E chi è? Mi chiamo Alberto. Roberto? Ciao, piacere, Luca. Alberto, non Roberto. Alberto? Alberto, Alberto. Ah, ok, ma sei amico di Cristian? Sì, sono sempre io. Ah, ok. Beh, in fase di uscita. Saluta anche Cristian. Ok, ricambia. Come arrivo? È un po' basso, sì, qua, latte dolce. Sì, perché noi siamo sulla Buti Buti, zona Cinziosa. E io bene arrivo. Benissimo, sì. Già va bene, io c'ho anche l'interrazzo, Cristian ce l'hai in macchina. Lo so, altro è stato la piazza da casa sua, una, buh. Sì, però non deve piazzare, non è in casa. Vabbè, lui è piazzato in macchina perché cresce molto. Magari d'inverno un po' meno, capito? Sì, d'inverno sì, infatti bisognerebbe averla anche d'inverno. che devo uscire. Ciao, ciao Cristian. Perfetto, e ciao, alla prossima. Attenzione, canale 10, qualcuno.